Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Da zanzara? Io sono venuto in Iran a suonare heavy metal con una band iraniana e ascolto la zanzara in piazza Azadi a Teheran, nemmeno con le cuffie, con gli altoparlanti. Cruciani, io mi alzo alla mattina alle 6, mi faccio un culo così al lavoro, ma al mio capo gli sto sulle palle. Prendo il treno che è sempre schifoso, sporco, lurido, chiedono il biglietto a me e non agli zingari. Arrivo a casa e la mia ragazza per una cazzata va a dormire sul divano. E allora sai io cosa faccio? Ascolto la zanzara, perché non me ne frega più un cazzo di niente, Crucians. Bentornati sulla Terra, cari amici dei 5 Stelle, bentornati sulla Terra, anche per voi un avviso di garanzia non significa dimissioni immediate. Finalmente facciamo un applauso, caro Parenzo, facciamo un applauso, evviva, evviva, la candidata 5 Stelle al Comune di Roma, la signora Raggi, pare tra l'altro dai gossip, si legge, Parenzo, io non lo so, dai gossip, che si stia separando con il marito. Vabbè, però alla fine ci interessa poco ai fini del Campidoglio. Però sai, quando uno è candidato, alla fine te tirano addosso tutto, eh. Certo, certo. Eh beh, è normale, cioè è normale. A noi comunque che ci frega se si sta separando nulla. O non si sta separando. Meno niente. Di nulla. No, però sai cosa vuol dire meno di nulla? Però accogliamo con favore, tanto io il marito l'ho conosciuto pochi giorni fa, è una persona simpaticissima, perché è un tecnico di Radio Dimensione Suono, una persona molto simpatica con gli occhialetti. Si spiega tutto, no, allora. Non si spiegano mazza, no, cioè, niente, l'ho conosciuto appunto, non si spiega. No, vabbè, nulla. Magari qualcuno conosciuto il marito della Raggi. Ah, vabbè, ma allora è tutto collegato. No, ma non è tutto collegato, non è successo nulla. L'ho conosciuto a Radio Dimensione Suono perché ho fatto una cosa lì e c'era il marito della Raggi con cui ci siamo messi amabilmente a discutere di politica. Vabbè, allora. No, una discussione tranquilla. Cioè, abbiamo discusso della questione della funivia, no? Sì, no, ma è chiaro. Lui diceva che hanno distorto un po' le cose, la stampa. Io dicevo, no, ma uno non può dire che la funivia serve a risolvere i problemi di Roma, eccetera, eccetera. Comunque, a parte questo, la signora Raggi, insieme ad altri dei 5 Stelle, sembrano essere tornati sulla terra. Dopo la vicenda Nogarin a Livorno, c'è anche la vicenda adesso Pizzarotti a Parma, con avvisi di garanzie. La signora Raggi dice una cosa molto semplice: l'avviso di garanzia al sindaco, le dimissioni dipende, altrimenti c'è lo strapotere della magistratura. Però bisogna dire che Di Maio, per esempio, uno dei leader dei 5 Stelle, no? Pochi giorni fa, poche settimane fa, forse mesi fa, quando Alfano fu indagato, non mi ricordo per che cosa, sai, essere indagati è molto facile in Italia, diciamo la verità. Poi se sei un amministratore pubblico in particolare. Può succedere spesso, disse dimissioni immediate. Adesso il vento è un po' cambiato. Un sindaco che riceve un avviso di garanzia si deve dimettere? Dipende, leggiamo il contenuto dell'avviso di garanzia, capiamo qual è il fatto contestato, poi si valuta. Del resto, insomma, mi sembra che sia doveroso capire bene quali siano le circostanze prima di poter dire, altrimenti si avrebbe, diciamo, una sorta di strapotere della magistratura, no? È bella questa cosa, ritagliatemela. Altrimenti si potrebbe avere uno strapotere della magistratura. sembra di sentire Berlusca, diciamo la verità. Diciamola tutta, sì. Se un esponente di Forza Italia si fosse espresso in questo modo, anche un esponente neorenziano, adesso utilizzo questa espressione. Neomelodico. Orribile. No, neomelodico è un'altra cosa. Neorenziano. Neomelodici sono un'altra cosa. No, appunto. Avremmo detto, vabbè, è normale, no? Lo dicono loro, che differenza c'è? Se lo dicesse, che ne so, Guerini del Partito Democratico, nessuno si potrebbe. Quello è il vice segretario del Partito Democratico. Un esponente qualsiasi del Partito Democratico. Fai dei nomi che se avessi fatto io mi avresti detto. No, ma lo dico perché l'ho incontrato l'altro giorno all'aeroporto. L'ho incontrato all'aeroporto l'altro giorno. Per questo mi è venuto in mente. Allora, si spiega un cazzo. L'ho incontrato per caso insieme al tuo amico Fiano. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Se l'avessero detto loro, allora, nei salotti buoni. Se lo avessero detto loro, avremmo detto è normale. Lo dice, bisogna conservare questa frase sullo strapotere della magistratura. Lo strapotere. Grillo, hai sentito? Sì. Allora, io consiglierei ai candidati sindaci a Roma, a sindaco di Roma, che sono diversi, 10, 12, 13, tra i maggiori e i minori, di fare un saltino in un posto che si chiama Villa Gordiani a Roma, dove qualche settimana fa le Iene hanno realizzato uno straordinario servizio con l'ottimo Filippo Roma, il quale ha sentito una signora, diversi personaggi, diversi anziani, i quali sono bloccati in casa, bloccati da anni, cioè escono uno o due volte l'anno perché hanno delle malattie, hanno dei problemi, eccetera. Lo sai perché? Perché nei palazzi comunali non esiste l'ascensore. Cioè non hanno costruito l'ascensore, sono palazzi anche di 4, 5, 6 piani. Questi qua è gente che ha bisogno di assistenza, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, non ci sono gli ascensori, cioè hanno costruito dei palazzi, ovviamente dove ci sono degli anziani, senza ascensori. Una straordinaria signora Marisa. La signora Marisa, senti, 82 anni. Fate un salto lì, invece di parlare di cazzate, le funivie e non so che altro, dai. Io non gliela faccio più, va bene? Cosa ci vorrebbe? Ascensore! Ma non vedi come stiamo all'ultimo piano? Da quant'è che ne esci di casa? È una vita! E non vado, non la faccio! In un anno quante volte esci di casa, più o meno? 5, 6, 7 volte! Se più no! Niente proprio! Ma per carità! Si torna a fare un'analisi, torna a fare una visita, dove ha attenzione! Tutto lì! L'altro giorno sono rimasto alle scale, non la faccio andare né su e né giù! Ma adesso mi sono ridotta qui dentro che mi butterebbe dalla finestra. Mi sento che sto carcerata, va bene? Ecco, speriamo che il giudice mi faccia. Io voglio l'ascensore perché sono una donna viva, non sono morta, che non sta qui dentro. Quanti anni c'hai? 82. È bella arzilla, eh? Arzilla incazzata. Mi è da piangere quando sto qui dentro sempre sola, sola, sola. La zanzara per il sociale. Ti piace questa svolta molto, sociale? Eh? Molto, molto, molto. Daremo anche presto una raccolta di fondi per la Caritas. Ma quale raccolta di fondi per la Caritas? Sei scemo, silenzio, sei. E finanzieremo il museo dei migranti. È un'idea che mi è venuta. Ma vai a fare in culo. Io non finanzio il museo dei migranti. Faremo il ma tu museo, sei impazzito. Il museo dei migranti. Cioè su quelli che sono naufragati, cioè con le immagini della morte, no, eccetera, un eccetera. Un grande museo dove con le carlinghe delle navi. Non esagerare, basta questo museo per adesso. Basta questo per una adesso. L'aiuto alla signora Marisa, che più tardi sentiremo. Ho sentito anche oggi la signora Marisa. Le Iene sono finite, noi ci sostituiamo in questo grandissimo ruolo sociale che dobbiamo avere. Il ruolo sociale della zanzara. Bravo, bravo, bravo. Però, ci sono sempre i nostri amici allerta, ci sono sempre i nostri amici che non vogliono firmare le nozze gay, cioè non registrerebbero al comune le nozze gay. Adesso che è diventata legge, passerà un po' di tempo, naturalmente che in Italia purtroppo è così, cioè la legge viene approvata, prima dell'approvazione ci vogliono idee che non voglio manco pronunciare quella parola, ci vuole un periodo molto lungo prima di attuare questa legge, un periodo molto lungo, siamo in Italia, non siamo in un altro paese. E allora ci sono alcuni sindaci, in particolare quelli leghisti, perché Salvini ha già lanciato, ha già parlato di boicottaggio, no? Benissimo, indagateli. Disobbedienza civile, come per l'aborto galera. Praticamente, no? Beh, come per l'aborto, diverso, però. Diverso perché lì è consentito la legge, in questo esatto. caso non è consentito la legge. Bravo. Bitonci, senti il tuo amico Chi è Bitonci. Questo? Sì, il tuo amico Bitonci. Ma farò l'obiettore di coscienza. Se... Non so chi sia io. Farò l'obiettore di coscienza, molti assessori e consiglieri comunali faranno come me e la cosa succederà anche negli altri comuni. E addirittura chiederà a Renzi di celebrare il primo matrimonio, cioè vuole impedire anche ai suoi consiglieri, credo, perché sai che il matrimonio può essere celebrato anche da chiunque, altri, naturalmente, no? Da chiunque, anche tu puoi celebrare matrimoni se no, delegato no, dal sito. Certo. Sì, devo essere delegato, naturalmente. Sì. No, ma il tuo amico, se un tuo amico, se Franco e Francesco. Ciccio, se Franco e Ciccio. Franco e Ciccio si vogliono sposare, dicono vogliamo, sì. Vogliamo rendere ancora più trash la situazione. Dice chi vuoi? No, perché Parenzo, più trash? Ma va, trash. Ah, Parenzo, ma che cazzo Cruciani. E allora chiedono al sindaco il bitonci di Turi, cioè potete delegare Cruciani a sposarmi? Beh, lo allora farlo, lo deve fare, sì, non è che può negare il permesso, capito? Chiederò a Renzi di venire a celebrare il primo matrimonio gay di Padova. E poi naturalmente Fanzaga, ragazzi. Io non so se ci fa o ci è. Io però vabbè, questo dice che non vuole celebrare i matrimoni gay. Scusa, potresti gentilmente distaccarti un attimo dal microfono, che si sente un rimbombo piuttosto acuto? Così, già tanto per gradire. Distaccarmi ancora più. No, ma leggermente, perché stai dando dei piccoli colpetti al microfono. E siccome è la radio, si dovrebbe sentire bene, in teoria, sempre in teoria. Abbiamo qui il signor Fanzaga. Io non voglio infierire sul grande guru di Radio Maria. Per carità, ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Però a me le parole mi fanno impazzire. Cioè, il fatto che lui pensi che Satana lavori per distruggere la famiglia, questa storia di Satana non mi va giù. Veramente questa storia di Satana non mi va giù. Ieri mi hanno attaccato perché ho paragonato, qualcuno ha detto una bestemmia, no? Ho paragonato il culto per la Madonna al culto per il Divino Telma, che non esiste naturalmente. Cioè, il Divino Telma che pensa di essere una divinità, no? Elohim, eccetera, e la Madonna, molte persone non si che può paragonare, dai. Alla fine lo spirito è lo stesso. Ma cioè, lo spirito è lo stesso. Uno è un cialtrone, ciarlatano, uomo da baraccone, da talk show, da quel che vuoi, un freaks, tutto quel che l'altro è freak, una... freaks è al plurale, freak. Beh, infatti sono tanti. Se Fanzaga, parla con la maiestatis, Satana, io divento pazzo con Satana. Divento pazzo. Il ritornamento all'attacco, possiamo dire, del maligno, come ha detto la Madonna Medjugorje, che Satana ha detto da tanto tempo, già da 30 anni, che Satana oggi lavora soprattutto per distruggere le famiglie, quindi... Satana lavora per distruggere le famiglie, il cuore della madre sanguina, il cuore della... Cioè, tu uno veramente pensa che oggi, per il fatto che è stata approvato una legge sui gay, il cuore della madre sanguini? Tu dimmi se questa sorta di credulità, se questa sorta di pensiero non è simile al fatto che uno dice: beh, però il Divino Telma potrebbe avere anche lui delle origini. Guarda, nonostante dai, tutto, su, nonostante il tutto, cuore della madre sangue. No, ho capito, ma nonostante dai, tutto devo difendere, dai, devo difendere, non Fanzaga, dai, ovviamente, il ma il cuore della madre sanguina, ragazzi. E dai, dai. Cioè, se il cuore della madre sanguina, vedendoci nel peccato, penso che dobbiamo fare l'esame di coscienza, perché qui viene istituzionalizzato il disordine. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Salvini, Giovanardi, Fanzaga, evviva l'Italia dei Froci, evviva l'Italia dei Froci! Allora, oggi ho sentito la signora Marisa, quella di 82 anni, quella che vive in quel palazzo assurdo a Villa Gordiani senza ascensori, la stravecchia, quella con le gambe... Sì, 82 anni, che è vecchia, una vecchia, un'anziana. È una vecchia, no, una vecchia, un'anziana, vecchia, con le gambe che ho, con le gambe. Ma, da ormire, ma no, ma in senso buono, ma l'adoro. La sua mamma, no, no, ma che vuol dire? Ma perché devi dire così? È una signora anziana, una vecchia, ma perché? Ma no, vecchia? In senso dispregiativo, sei impazzito. Ma non si dice la parola una vecchia. Comunque, andiamo avanti. Una signora anziana, come ti devo dire, di 82 anni. Una signora anziana di 82 anni, l'abbiamo sentita. E l'ho sentita, e sentiamo che. Che cosa mi ha detto? Senti, senti, senti, senti. Senti. Marisa, ciao, come stai? Assente, perché mi posso muovere. Quanti anni hai, Marisa? 82. 82 anni. Ma dimmi un po', qual è la tua condizione? Come stai? salute. Te salute, come stai? Non so bene. Non stai bene? No, no. Ma stai sempre sopra il letto? Sì, so, adesso mi sono messa sul divano. Ma le gambe come vanno? Male. Che c'hai alle gambe? Sono gonfie. Sono tutte gonfie, ma non hai qualcosa di grave, no? La schiena. Ah, la schiena. Ho avuto due operazioni alla schiena, Due operazioni alla schiena. Ma dimmi un attimo, ma da quanto tempo aspetti l'ascensore? Una vita. E perché non li mettono questi ascensori? Vai a di te. Ma è quello che diciamo, ma perché non li mettono? T'hanno dato qualche spiegazione? No, diciamo, ma vediamo, che vedono? Io a sta canale, ma vediamo, e ma sentiamo, ma vediamo e ma sentiamo. Ma come li vengono io meno? Ma cosa vuoi dire a quelli che comandano? A quelli che comandano e alla fine vanno lasciato senza ascensore? Io vorrei dire a quelli che comandano. Sì. Al comune, io vorrebbe dire, vorrebbe da voi a 82 anni sia fatta fare tutte le scale. L'ultima volta che sei uscita quando è stato? Un mese fa per fare analisi. Ma quante volte esci ogni anno? Quante volte esci ogni anno? Io so che devo fare analisi. E basta? Basta, chi esce più? Ma che faresti domani se avessi l'ascensore? Scenderebbe più spesso. Ma cosa ti piacerebbe fare che non puoi fare adesso con l'ascensore? Che mi piacerebbe fare? A scendere, andare al mercato, a divenire, ha capito? Solo al mercato? A trovare un'amica mia, sono sempre sola. Ma quanti piani sono di scale? Quattro piani. Quattro piani, impossibile praticamente. Ma non ne ha fuori. Senti, ma fai un appello ai candidati sindaco, li conosci questi candidati sindaco? Io non conosco i candidati sindaco. Cioè, la Meloni la conosci? A Meloni? Io no. Che ne so, se ti dico Raggi, conosci una che Raggi. Si chiama? Raggi. Giachetti, no. Lo conosci? No, non sai niente, manco sai chi so questi qua. Bravo. Ma ci vai a votare o no? Ce l'ho a votare. E come fai ad andare a votare? Mi accompagni, mi figli. Chi voterai, non lo sai? Che ne so, non dico i miei figli come tu lo sa. Per forza, che devi fare? Ma facciamo un appello ai candidati sindaco, così almeno forse si smuovono e riescono a cambiare questa situazione. Dimmi che gli devo dire, che gli dico tutto. No, dillo tu, candidati, venite, non voi. Candidati, venite, perché io non ce la faccio più. Brava, dillo più forte. Candidati, venite, che io non gliela faccio più. Non la faccio più, scendo, non vengo più a casa. Magari ti passano pure a trovare questi qua, questi che vogliono. Magari, venite a trovare, no? Così mi vedete. Mettete questo benedetto ascensore. Ascensore, sì. Guarda bene l'ascensore che bisogna fare. Ciao Marie. È andata in onda una puntata speciale della Zanzara per il sociale. Adesso io scherzo, ragazzi, però la questione è seria, bisogna risolverla. Questi qua si diano una mossa. La signora Marisa, 82 anni, ci sono altre persone nelle condizioni di Marisa. Andate lì invece di occuparvi di minchiate, di discutere sulle droghe leggere, su altre cose, perché certo. Là ci divertiamo tutti. Andate lì, risolvete sta cosa, mettiamo un ascensore con tutti i soldi che sprecate a Roma, i soldi che buttate. Tronca è stato interessato, però fino adesso non è successo nulla. E dai. Gregorio Bologna, vai! Gregorio! Ciao! Dimmi. Sono contento che hanno indagato tutti quelli del 5 Stelle, tutti quelli che io definisco i testimoni di Geova della politica. Perché... Non ho capito, scusami, non ho capito. Chi? 5 Stelle? Sì, 5 Stelle, perché si candida tutta gente poco professionale che vuole raggiungere solo posizioni di potere, come tutti gli altri. Va bene, adesso non è così, dai, rispetto ad altri partiti non so, è il meno, cioè non è, fino adesso sono solo avvisi di garanzia, è l'atteggiamento, rispetto ad altri c'hanno la rogna, diciamo la verità, cioè, questi qua adesso c'hanno solamente avvisi di garanzia, punto e basta. Però devono capire che l'avviso di garanzia non significa un cazzo, tranne alcuni casi particolari. Significa semplicemente che alcuni sono indagati spesso per cose formali, per qualche firma messa su documenti, eccetera, eccetera. Magari si scoprirà che sono tutti innocenti. Per quanto riguarda l'ospite che avevate ieri, chi era? Adinolfi. Quello lì, donna che fa Adinolfi, peccato di gola. Peccato di gola e gioca d'azzardo, dopo si scandalizza. Per allora, che vuoi dire? Non ho capito, che vuoi dire? Che si guarda anche di Rolfi. Vabbè, ciao. Italia morale, Italia morale, vuole Italia morale, Italia morale. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Ragazzi, io vi volevo dire una cosa, ma da quando ho scoperto sto numero di WhatsApp dalla Zanzara sono rinato. Finalmente un contatto diretto, un contatto diretto. Una sera finisce a lavorare, piglio telefono, attacchi WhatsApp, apri, tac, numero della Zanzara che non mi ricordo qual è, ce l'ho memorizzato, tac, microfonino, tac, apri, dici quello che pensi, quello che minchia ti pare, oh, e ti sfoghi e dici puttanate, minchiate, cose serie, stronzate. L'importante è che ti sfoghi. La Zanzara. Lo straordinario Sgarbi di ieri sera qui alla Zanzara. Preparatevi un po' forte, ragazzi, per chi è ancora con i bambini in macchina. Ma i bambini sono abituati a tutto ormai, caro Parenzo, non c'è bisogno nemmeno di avvertire. Beh, insomma. Beh, sì, ma va bene, Sgarbi, va bene, dai. Certo, in questo caso è un po' alle fortino. 19:20, usa la parola inculata. Adesso beh, voglio dire. Questo, sì, ma però la parola anticipata. No, però la parola diciamo. Inculata, no, per avvertire, no. La parola inculata potrebbe dire anche fregatura, potrebbe voler dire, non necessariamente inculata nel senso tecnico del termine. Farei un'analisi, diciamo così, no, delle parole, però. Comunque, senti. Io sono contro ogni unione, per cui trovo che sia il momento più basso della democrazia. Sì. E dove si inculano, si inculino. Perché che diritti vogliono solo incularsi? E le palle sul fatto che occorre l'assistenza di due che stanno insieme sono una miserabile riproduzione della coppia piccolo-borghese che ha rovinato il mondo con le famiglie, che sono il punto più orribile della concentrazione di violenza che viene quando un marito uccide la moglie, la moglie uccide il marito. Sì. Cioè la famiglia, tu dici, è il punto più basso. Bisogna distruggere la famiglia, fare un referendum contro la famiglia e contro il matrimonio e restituire agli individui la propria libertà. E sono masochisti probabilmente, cioè non vogliono avere, siccome hanno avuto anni di ghetto, vogliono finalmente avere la legittimazione, che è una logica anche umanamente comprensibile. Ma perché cosa? Per andare a spiaccicarsi contro un muro? Cioè qualunque persona sposata e almeno la metà dei matrimoni finiscono in divorzio e chiunque sia sposato sa che è un'inculata. Capisco che la mia battuta famosa e forse l'inculata è quella che li ispira. Vai Sgarbi, sei tutti noi. Distruggere il matrimonio, distruggere le istituzioni, distruggere tutto quello che è incardinato nella tradizione. Deve essere lo scopo di ogni trasmissione radiofonica, diciamo la verità. Quasi di ogni trasmissione, quasi ma per istituzione. No, ma non è vero, ma certo, perché? Istituzionalmente dovrebbe essere così. Istituzionalmente. Vogliono il lavoro, vogliono i soldi. Altrimenti vogliono la casa e non solo la moglie, adesso anche il moglie. Il moglie. E devo, lavori, vado a fare in culo. È così, la regolamento. Abbiamo liberato il sesso per imprigionarlo in un matrimonio dentro il buco del culo. Ma che roba è? Com'è? Ma te immagini Pasolini sposato, Oscar Wilde sposato, Proust sposato, Socrate sposato, Platone sposato col suo ometto, ma se lo incula e basta, fine, è il massimo, è meraviglioso, è sublime, è il sesso più alto. Però io voglio cambiare repentinamente argomento, perché io non sopporto quando una persona fa un'uscita e dopo si pente di averla fatta. È una cosa che trovo insopportabile. Un esempio. Di chi parli? No, un esempio calzante, in questo caso è il professor Giuliano Cazzola. Di cui abbiamo parlato l'anno scorso, cioè l'anno scorso, nei giorni scorsi. È un grande esperto di pensione, il professor Cazzola, il quale ha detto una cosa su suo figlio, una cosa molto bella secondo me, su un figlio che lui ancora ha 47, 48, 49 anni, non mi ricordo quanto ha, sovvenziona con oltre 1000 euro al mese. Senti. Io sono un cattivo padre perché ho 75 anni e lavoro ancora e finanzio mio figlio che ne ha 47 perché lui vuol fare il musicista di successo e non vuol fare nessun altro lavoro. Mio figlio ha 47 anni e gli passo uno non la paghetta, uno stipendio da 1500 euro al mese. Beh, lo capisco io. Cioè, se uno ti dice, papà, io voglio fare il musicista, la prima cosa che devi rispondere, figlio mio, vai a fare in culo. Cioè, lavora come cameriere. Ma no, ma perché lavora come così? Cameriere. Ma lavora perché? Come cameriere. Ma peraltro, lavora come cameriere e poi a tempo perso fai il musicista. Ma perché? Ma sì. A se uno mi dice, tuo figlio, figli, se uno mi dice, tuo figlio. Farlo? Ma a secondare di che cosa? E poi a 47 anni ti devo da 1500 euro al mese. Se tuo vabbè, figlio se ti non dice. Sappiamo... Voglio... Ma non è quello che ha detto lui. Se tuo figlio, se mio figlio mi dice, mia figlia mi dice, papà, io voglio fare la musicista. Senti, cara mia, vai a fare in culo. Fai la cameriera, vai a fare, non lo so, i massaggi in un istituto di bellezza, vai a fare le unghie in un istituto di bellezza e poi a tempo perso impari la musica, vai a fare i corsi, vai a fare quello che cazzo vuoi. Altrimenti non mi rompi i coglioni, perché io a 48 anni, se ti devo dare 1500 euro al mese, mi vergognerei per te, non per me, mi vergognerei per te se io ancora a 47 anni ti devo dare 1500 euro al mese. Comunque, dopo questa frase straordinaria detta da Cazzola, che ha avuto il coraggio di dire che il figlio a 47 anni si fa mantenere perché vuole fare i musici, a un certo punto, se a 50 anni non sei riuscito a fare nulla come musicista, basta, molla, molla amico mio, molla. E no, non molli perché... Poi magari protesti contro la disoccupazione, vai a fare le manifestazioni contro la disoccupazione, credo, o protesti contro il mondo ladro, contro le raccomandazioni, eccetera, eccetera. Se a 1500, se ti prendi da tuo padre 1500 euro, non mi devi rompere i coglioni in nessun modo. Comunque, dopo questa uscita, si è pentito, signor Cazzola. Senti. La ringrazio per l'invito che mi consente di fare un'operazione di correttezza, di chiedere scusa a mio figlio per le cose che l'ho detto l'altra volta qui da lei. Potevo risparmiarmi di metterlo in imbarazzo, mi pare che sia stato ingiusto metterlo in imbarazzo, ecco, visto che poi la cosa è stata raccolta da una radio, quindi c'è stata una polemica anche in famiglia. La radio ovviamente è questa. Beh, allora mi dispiace se l'ha creato dei problemi. Ti dispiace di che? Ma cosa ti dispiace? Non ho capito. Mi dispiace se gli ha creato dei problemi in famiglia per la sua sortita, ha fatto ma bene. Ma cosa ti dispiace? Che cosa? Di avere mandato in onda l'audio, l'audio. No, che, se lui le parole dice, di Cazzola. Mi se dispiace. Lui dice che gli dispiace per il figlio. Ma sti cazzi, ma che ci frega a noi? Allora scusa, ci dispiace molto, ma noi non ci dispiace creare problemi alla ma gente. Ma noi non ci dispiace per niente. Ma che cosa ci dispiace? Scusa, di cosa dobbiamo no, dispiacere? No, che se gli ha creato dei problemi, lui ha voluto fare questa rettifica che non avevo sentito. Scusa, amico mio, ma adesso se Cazzola fa la rettifica dicendo che una radio ha diffuso il contenuto è stata raccolta no, a cosa che radio. In generale gli ha creato dei problemi in famiglia. Ma chi se ma va bene, ma non me ne importa niente, non mi dispiace, beh, sono affari loro. Appunto, sono affari loro. Dire ci dispiace allora. Se ma lui non ti dispiace, no. No, a me non mi dispiace per niente. No, se uno ha contento. Il coraggio di dire una cosa, aprendo un problema che è un problema serio, delle persone che vogliono fare lavori magari assurdi. Magari è sfuggita, non voleva tirare in mezzo i parenti, gli amici, il figlio, che ne sai? Scusa, ha detto una cosa molto chiara, non è che gliela ne storta, molto chiara, molto precisa. Ha creato un casino, lui giustamente dice mi dispiace aver fatto del male a mio figlio, di aver fatto del male, poi male no, ma insomma, incredibile, creato. Dai, incredibile. Comunque ci sono altre due frasi della Raggi significative di oggi che riguardano i magistrati, il candidato sindaco di Roma. Adesso non voglio infierire, molti mi hanno scritto. No, ma è interessante il cambio di passo dei 5 Stelle è positivo. Sono loro quelli che rubano di meno, gli altri sono tutti la rogna, eccetera, eccetera. Ma tutto bene, può darsi che sia così, anzi, sicuramente è così. Però cosa scelta? Se uno dice una cazzata, dice una cazzata. Se uno in questo caso non dice una cazzata, dice una cosa vera, la Raggi, e però è il contrario di quello che hanno detto i suoi capi fino all'altro giorno. Stanno cambiando posizione. Raggi, ottimo. Raggi. Che gli avvisi di garanzia non vengano utilizzati come dei manganelli, perché ripeto, molto differente è il caso di diffamazione rispetto al caso di peculato, rispetto al caso di truffa, rispetto al caso di abuso d'ufficio. Ah, c'è il distinguo, eh! C'è il distinguo! fatto, l'onestà deve essere comunque il faro, però attenzione che questo non venga poi utilizzato strumentalmente per colpire una forza politica che sta tentando di riportare pulizia, legalità e di ripristinare un'azione amministrativa efficace. Siamo onesti, ma non siamo sciocchi. Che c'è, un complotto contro i 5 Stelle? Che c'è? Boh, chissà. Vabbè, dove andiamo, ragazzi? Dove andiamo? Paolo da Roma, vai. Ciao, Paolo. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Lorenzo. Buonasera, signor Paolo. Volevo, diciamo, dire una cosa sulle esternazioni di Fanzaga, no? Cioè, sì, il diavolo, però, eccetera, eccetera. Sì, diciamo, da un punto di vista religioso può avere anche le sue ragioni, perché e allora? Nessuno le discute. Da un punto di vista politico c'ha un certo impatto. Peccato che il signor Fanzaga, io lo chiamo signore, si dimentica di dire che se veramente Satana volesse distruggere famiglie da 30 anni, lo sta facendo con le politiche che l'hanno ammazzato la famiglia invece di aiutarla, non con le unioni civili. Perché non parlano di... Di che cosa, scusi, di che cosa dovrebbe parlare Don Fanzaga? Non ho capito. No, pronto? Dicevo semplicemente che raccontano le cose come, diciamo, le strumentalizzano per portare avanti... Non ho capito niente. Ermenegildo, provincia di Varese, dai. Pronto? Sì. Ermenegildo è un nome che io ho sempre preso in giro. Sì, Ermenegildo. Ermenegildo. Come cazzo si fa a chiamarsi Ermenegildo? Nome antico. Cioè, un nome assurdo, Ermenegildo. Perché uno dovrebbe condannare una persona a chiamarsi Ermenegildo? Ma perché lo devi chiedere? Ma mi pare una follia, Ermenegildo. Lei si trova bene a chiamarsi Ermenegildo? Certo che mi trovo bene, qual è il problema? Ermenegildo, perché uno si dovrebbe chiamare Ermenegildo? Diciamo la verità, cioè, i suoi genitori le hanno dato una condanna. Mio nonno si chiamava così, hanno deciso, sono le tradizioni dei Veneti. Beh, ho capito, amico mio, Ermenegildo, come si fa uno? Perché che uno faccio? Vado in comune a cambiarmi il nome? Secondo me dove a un certo punto, a 18 anni, capita la condanna, capito no, diciamo, il martirio. Sto benissimo, sono sicuro che quando mi chiamano mi giro solo io. Beh, ho capito, ma non ti chiamano, questo è il punto, perché uno non dice Ermenegildo. Tu che non mi chiami. Vabbè, senti, io ho chiamato per un'altra cosa, sì. Dai. Lo ma chiameranno Erme faranno sì, appunto, Gildo. Ma meraviglioso, dai, Gildo. Ma che è Gildo? Gildo. Ma che è Gildo? Io conosco Gilda, non Gildo. Gildo mi sembra una cosa di un checchismo tu pazzesco. Conosci Gildo. Beh, tu conosci Dildo, no, Gildo. Una cosa di checchismo incredibile. Gildo, ma non Gildo. Perché devi insultare il nome di un adorabile ascoltatore. Non sto insultando, sto dicendo, parla lui, cioè che con gli ascoltatori il rapporto che ha. Poi io attacco Ermenegildo sul nome, non è che per il nome, io le attacco per le idee, io attacco lui. Per il nome, io non attacco lui, io ho detto semplicemente che se uno ha dato il nome Ermenegildo, ma l'hai insultato, poveretto, non l'ho insultato, ho detto che il nome del cazzo ordine, checca, la tua famiglia ha dato il nome del cavolo, ma in più cosa gli devi dire, uno stupratore seriale, aspetta Ermenegildo, aspetta un attimo, dai Ermenegildo, non si può sentire Ermenegildo, dai, una cosa oscena, io li attacco per le idee, tu poverino per il nome, quello è il nome del nonno al quale era legatissimo, peraltro, dai, scusa, ma perché devi distruggere una storia di famiglia, non è accettabile, la storia della famiglia, della provincia di Varese, di un signore, la famiglia gli ha dato il nome di questo grande nonno. Ermenegildo, dai, il ma come cazzo nonno si che fa? Ha fatto tanto per la provincia di Varese. Ma che ne sai? Magari era un criminale. È così, ma che anticriminale adesso. Erme. Il nonno di Ermenegildo, ma è incredibile. Vi sto ascoltando, dai, andate avanti. Aspetta, un attimo, fermo. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. La macchina davanti a me ha appena tamponato per far attraversare un piccione. Cioè siamo destinati all'estinzione. Piccione 1... Genere umano 0. E pensate che ci sono delle associazioni che vanno a controllare che in alcune strade non vengano uccisi i rospi mentre attraversano la strada, capito? Cioè problemi. Che non vengano uccisi i rospi mentre attraversano la strada. Sono le vere e proprie stragi in alcune parti d'Italia di rospi. Sì, stragi. D'accordo, ma chi se ne frega? Cioè, francamente chi se ne frega? Cioè, se un rospo attraversa la strada e viene calpestato da una macchina, succede, cioè è la dimostrazione del fatto che il rospo non è un essere umano. Perché se fosse un essere umano sarebbe sensibile ai suoni di un clacson o altre cose, no? Oppure potrebbe velocemente correre verso la salvezza. Invece no, stanno lì, attraversano la strada e vengono calpestati. Questo significa che il rospo non è uguale all'essere umano. Ci sono quei simpatici signori di 100% animalisti che continuano a rompere i coglioni alla Zanzara. Sarebbe Mocavero questo qui. Sì, sì, Mocavero. No, aspetta, perché è curioso. Sono andati alla sede di Confindustria di Padova. Sì, la sede di Confindustria di Padova, a mettere una specie di striscione, di cartello. Radio 24, nemica degli animali. Confindustria, vergogna. 100% animalista. No, ma senti, senti. Pretendiamo dai vertici di Confindustria le scuse ufficiali per il fango gettato. Sì. E le esigiamo non per noi, ma per gli animali e per l'animalismo. Sì, sì, certo, guarda, ci sono manifestazioni di animali. No, immagino già, si è già convocato l'esecutivo, il direttivo della Confindustria, Boccia sta esaminando. No, ma soprattutto l'esecutivo degli animali. Sì, cioè l'esecutivo sicuro. Degli animali si è riunito per protestare ufficialmente e per avere delle scuse, capito? Certo. Confindustria emani un comunicato di scuse. In caso contrario continueremo nelle azioni di denuncia e di disturbo delle sue iniziative. Quali iniziative? Ma che cazzo sono? No, le iniziative di quelle istituzionali. Che a Mocavero. Allora, eravamo con Ermenegildo. Io sono sicuro che Ermenegildo non sa nemmeno qual è il significato del suo nome in realtà. Ermenegildo, qual è il significato del tuo nome? Ma chi se ne frega, Cruciano. Ma lo sai che significa il tuo nome o no? Non lo so, non mi sono mai posto il problema. Non ti sei, cioè un nome così complesso, così, così bizzarro, così barocco, ma, così tormentato. Ma non ho chiamato per sapere. No, ma io lo so che tu non hai. Però io ti a rendo. A rispetto del mio nome, volevo magari tentare di esprimere un concetto intelligente. Tu lo sai che è un antico nome germanico, Erminigild, composto da Ermen, da Hermes, figlio, e Gild, eccetera. Un qualcosa che ha a che fare con Dio, una roba. Il completo sacrificio. Completo sacrificio vuol dire. Evidentemente è un destino. È un destino perché tu ti senti sacrificato? No. Ti senti vittima di qualcosa, no? Sì, mi sento vittima del governo Renzi, come tanti cittadini. Cioè, spiegami. Allora, tra l'altro, volevo agganciarmi a quella che ha detto la Raggi oggi pomeriggio, che l'ho sentito da voi un minuto fa. Io questa cosa l'avevo pensata da qualche giorno. Sì. Evidentemente siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè? Cioè che o in Italia siamo tutti dei disonesti e crediamo a quelle cazzate che dice Renzi e i suoi compari o davvero siamo in un pericolo. Cioè questi qui, io parlo del governo, dei poteri forti o di chi gli sta attorno, o si sentono tremare la terra sotto i piedi e usano un qualcosa per destabilizzare adesso i sindaci che fanno. Scusa, però la cosa è abbastanza curiosa. Tu che sei, mi sembra, un simpatizzante dei 5 Stelle, dici che c'è una specie di complotto, non so che cosa, ordito da magistrati di diverse città, i quali mettono sotto indagine i sindaci dei 5 Stelle. Se uno non riesce è la stessa cosa che diceva Berlusconi, o che dice sempre Berlusconi, cioè che c'è una specie di complotto per dei magistrati per distruggerlo. C'è da fare una piccola differenza, basta vedere che cosa ha combinato quello del PD fino a oggi e poi. Ma infatti ci sono indagini in corso in tutta Italia. Sì, però nel frattempo la gente normale sente le notizie in televisione, si confonde le idee. E dunque c'è la manina di Renzi? Assolutamente sì. In queste cose c'è la manina di Renzi, che pare che con i magistrati abbia però dei conflitti, per cui la cosa è un po' contraddittoria. Mentre tu dici. Io penso che lo scopo. Sì. Di questi governanti è confondere le idee ai cittadini per poi poter fare sempre quello che vogliono. Vabbè. Lo dimostra il fatto della riforma. Cioè vogliono fermare i 5 Stelle, tu dici? Vogliono fermare i 5 Stelle? Hanno paura dei 5 Stelle. Vabbè. Uno che cambia la Costituzione e un articolo, adesso non ricordo qual era il codice. Ma che c'entra con i 5 Stelle? Ascoltami, che era fatto da 5-6 parole, 7 parole e diventato di 300. È perché la gente non deve capire quello che in realtà loro vogliono fare. E che cosa vogliono fare? Vogliono continuare ad esercitare il potere per rendere il popolo sempre più ignorante. Guarda che basta vincere le elezioni e avere la maggioranza attraverso due turni elettorali per conquistare il potere. Questo può succedere ai 5 Stelle, questo può succedere al Partito Democratico. Dunque, di che stiamo parlando? La gente che va a votare che non capisce bene quali sono le proposte. Vabbè, Ermenegildo, ciao, grazie. Luigi da Roma, dai. Luigi, dimmi. Dimmi Luigi, dimmi. Ciao. Sì, abbiamo fatto. Quanto hai aspettato? Quanto hai aspettato? Abbastanza, ma Ermenegildo. Meno di un autobus, dai. Ermenegildo. E che vuoi fare? Ermenegildo, uno si chiama così. Io ho sempre pensato, non so perché, ho avuto sempre la fissazione del nome Ermenegildo. Mi sento parecchio incazzato. Sì. Ma che è dovuto? È lontano da disagio o c'è il ciclo? Di la verità? No, c'è un po' di ciclo, devo dire la verità. C'è un po' di ciclo. Me ne sono accorto. Comunque, dato che ha tirato un ballo all'animalista. Però sta finendo il ciclo, sta finendo. No, sta finendo, meno male. Dicevo, ti do un consiglio per il pollo. Sì, tanto. Il pollo. Se dato il che pollo. Tu, se non so se te lo fai da solo, lo devi fare a pezzi. Sì. Lo spelli, lo metti in padella. Non c'ho tempo per fare tutto questo, comunque. No, ci vuole poco, fai presto. Beh, insomma, vado a pezzo. Bisogna avere il pollo, spezzarlo. Il maiale. Che devo fare? Perché è da un sapore diverso, è una libidine. Quando te lo mangi, però, non devi invitare nessuna Monica Lewinsky, se no rischi di rimanere sul tavolino, capito? No, non ho capito io questa grande metafora del signore. Da... Allora, uno cucina, no, il pollo, perché... cucina il pollo con dei pezzi di maiale, con che cosa? No, con un pezzetto di costolette, no? Con un pezzetto di costolette di maiale. Che dà un sapore diverso. E poi, che c'entra le vischi, scusa? Cioè, non mi devo far fare i pompini? Non ho capito bene. Eh no, certo, se ti va a fare un fischione mentre te mangi quello, c'è il rischio che rimani inchiodato, E vabbè, ho capito quello... Passato del Mosè, quello che è rimasto sulla sedia. Ho capito, amico mio, questo vale però in ogni caso, non semplicemente quando mangi il... No, beh, se fai due cose insieme sono due emozioni edificanti. Tu dici l'emozione di una cosa e l'emozione dell'altra. Le due cose. Un'altra cosa, senti. Il rigatone è un'altra cosa, famoso rigatone, rigatone. Ma rigatone, moccolo, moccolotto, rigatone, fischione, chiamalo come ti pare. Bella sta cosa, moccolo, rigatone e fischione, Parenzo, impara. Sì, beh, un glossario. Anche tiramisù. Il glossario della zanzara, vai, diciamo, Luigi, no? Ecco, è quello che... Ma senti un po', quel cazzo e mezzo che ti dà la mano, anzi dovrebbe darti la mano ma te l'ha manco un dito. Beh, oggi è moscio, sì. Lo sa almeno le... che le fasi dell'amore di quel gesto sono come le fasi del motore, cioè? E cioè aspirazione, compressione, scoppio e scarico, quello è il motore, no? Che fa così, le fasi del motore lui ne conosce. Ma dimmi, che qual è la metafora? Non ho capito, le fasi del motore. Anche tu l'hai capita, io sì l'ho capita, però. Okay, il motore a scoppio, quello. Che cos'è? Ecco, bravo. Il motore a scoppio, cioè le pompe del motore della macchina. Sì. È aspirazione, è così, è reale questo, Sono le quattro fasi del motore. Ah, sì, ho capito. Vabbè, allora? Poi dici a quell'amico tuo, che quello è giusto un amico tuo, però, perché ti ho detto stretto, insomma, non è che... Sì, poi... Io volevo ricordare che poco tempo fa a quattro albanesi si sono fregati, ne hanno trovati con 3,5 tonnellate di rame. Sì, regalo alla CEA, che tra un po' mette in crisi un sacco degli italiani per... Ma proprio italiani, nel senso, non solo allora? Roma, diceva quello. E quel marocchino che si voleva ambrosare a quello all'ospedale San Camillo, sì, dato che lui fa sempre protettore delle anime perdute, lui porcazzo ha detto niente su questo, però lui. Tu. Tu. Non mi pare che sia corretto, che dici te? Non lo so. Rispondi a Luigi? No, che fai? No, Luigi, non c'è bisogno di rispondere, talmente, come dire, no? Talmente che non c'è bisogno di parlare. Ma non c'è bisogno di parlare. Cioè non c'è con Luigi, con il linguaggio di Luigi, bisogna ascoltarlo e prendere appunti rispetto al motore, tutte le cose che ha detto Luigi, figuriamoci. Ecco, bravo. Ciao Luigi. Non vuole parlare con te, non vuole parlare con te. Lo disprezzo. Ti disprezza? Sì, ecco. Quindi. Ha detto che mi disprezza? Sì. No, ha detto. Vabbè, fa per focaccia, che se ne dici che lui è meglio di me? No, mai detto, ma la disprezzo e quindi, come dire, centellino le parole. Dambo le parti. Centellino le parole, quindi disprezzandola non posso dialogare con lei. Oh, ma non avete proprio un cazzo da fare, ragazzi. Ore di radio perse. La zanzara. Allora, Renzi ha detto una cosa pochi istanti fa, cioè oggi, che persino uno come Carlo Freccero potrebbe apprezzare. A proposito delle unioni gay, sì, ha detto: ho giurato sulla Costituzione, non sul Vangelo. Bellissimo. Voi direte adesso siete renziani. No, noi non ce ne frega niente, renziani, non renziani. Ascoltiamo le parole e giudichiamo. Carlo! Sì, pronto? Ciao, eccolo. Come stai? Ciao. Bene, ciao. Non mettimi nei casini questa volta, ti prego. No, non mettermi nei casini. Che casini ti devo mettere, amico mio? Sì. Uno dice padrone del proprio destino, delle proprie parole. Va bene, lo so, ma a volte io... Apprezzi questa cosa di Renzi o no? Sì, l'apprezzo. È talmente però banale, insomma, rispettare i diritti minimi per tutti che veramente... Cioè, sono quelle forme... Devi sapere una cosa, che secondo me tutta questa polemica sul gender, sì, nasconde i veri problemi, che sono i problemi delle job acts, che sono dei problemi del lavoro, cioè sì. È molto più facile essere generosi sul gender. Chi è contro il gender ormai? Su, per favore. Se dici poco, una minoranza, tu dici, del paese, Gaspanza, bigotta, cioè è facile. Quindi, però lui dice che può perdere voti in realtà, con questa ma cosa. Ma non è vero, no. Puoi capire, non perde nulla. Lo sai che però devo dire, devo dare ragione a Carlo su una cosa. Per esempio, la questione del Jobs Act e della finzione e dei posti che in realtà non esistono, aumentati col Jobs Act, pubblicata l'altro giorno da Libero, non l'ha ripresa nessun giornale. Cioè che sono dati dell'INPS, credo. Io quindi racconto una cosa, sono stato 2 settimane fa a Parigi, sì, c'è sì. La Nuit Debout, la notte in piedi. Bellissimo. Che vuol sì. dire anche appunto far discutere eccetera, la notte ma anche in piedi rispetto al potere, spero anche sedute, sì. Sì, però esattamente, però insomma c'è una polemica fortissima contro la legge tra il lavoro sì. che corrisponde alla nostra legge, sì. qui in Italia tutto si assorbe, sì. è una cosa molto strana veramente. Ma Renzi ha dalla sua parte quanto dell'informazione secondo te, Carlo? 92%. 92%. Chi è che resta? Che resta, diciamo, noi? Che resta? Allora, la zanzara, perché è regolare. Sì. Tutto ciò che è regolare, eccetera. Poi c'è un po' il fatto, il manifesto e basta. Il fatto, è in TV? No, perché poi c'è il problema di lì, ci direi, ma no, ma allora ci guarda il giornale, guarda un attimo Libero, ma sì, in verità poi alla fine se c'è una cosa, il Nazareno sogge da tutte le parti. E in televisione? E in TV? In TV. Antirenziano, Antirenziano, guarda, c'è totalmente. In Rai poco, perché il povero Giannini l'hanno triturato. Penso un attimo che mi ha colpito che oggi sulle polemiche che c'è su virus, sì. non si vede né Ansaldi né Gasparri parlano del povero Giannini. Tutti a difendere i virus. Difendono virus, ma secondo te va cancellato virus? Ma guarda, io virus, allora tu sai che sono molto, trovo molto simpatico e molto charmant il mio amico Porro. Sì, charmant Porro. Sì. Porro, perché oltretutto si veste benissimo. Vabbè, questo è conta. Ha sempre il colletto alla camicia stropicciata, come insegna Filippo d'Inghilterra, che occorre avere qualche elemento un po' sì. non perfetto. Disprezzatura. Ed esattamente, elegantissimo. Secondo me l'anchorman che sarebbe ideale per fare un telegiornale sì. di destra sì. rispetto a quello che era una volta sì. era una volta Curzi, quindi lui è perché ha un sorriso accattivante eccetera, ma ha accettato di lavorare in uno studio schifoso. Ah, uno studio schifoso. Proprio schifoso, con delle luci schifose. Sì. Cioè, come si fa veramente uno della sua classe a citare queste cose? E non solo. E poi una cosa importante, mi sembra che ci sia poco lavoro rispetto a quello che io. Ma ti sto parlando con tutta l'ammirazione che ho per lui, perché lui è. Vabbè, ma fanno bene a cancellarlo o no? No, sì. Ma no. Io saprei cosa fargli fare a lui. Che cosa gli faresti fare? Non posso, perché attendono i palinsesti. E vabbè, ma che ti frega? La tua idea, amica, la idea indipendente. Comunque lui potrebbe fare una cosa molto... Ma lo vogliono mandare via? Io lo ci ho parlato, cioè l'ho saputo, lo vogliono mandare via, gli vogliono far fare un'altra cosa. No, gli farà fare un nuovo programma, stanno studiando. Ma che bravo, bravo, pare... Dai, ma Parento se la voce della consiglia. Però ragazzi, scusami, bisogna leggere le cose. Sta cosa di Giannini, sta cosa di Giannini. Di fargli fare sì, vabbè, un nuovo sta cosa di Giannini. Così. Però sta cosa di Ballarò è una cosa assurda. Adesso, per carità, sicuramente sì. Renzi vuole controllare, Renzi avrà delle, sì. delle però il problema è che non funziona. Diciamocela tutta, caro Carlo. Dai, su. Sì, anche lì non funziona. È chiaro che quello studio lì era pensato per Giannini, pensato per Floris, che andava avanti e indietro. Su, sai, che faceva quelle camminate lì, questo qua invece è sempre bloccato. Ma se tu fossi là a decidere, lo terresti sì o no? Sto Giannini, diciamo, dilla tutta. Allora te lo dico subito. Allora, io Giannini lo difenderei per due motivi: perché sa di economia, su questo qua in dubbio, perché oggi essere sì. e poi perché è proprio l'opposto di Porro, mentre Porro è totalmente liberista. Questo giustamente lui in qualche modo. Cioè tu più... manterresti tutte e due, diciamo la verità. Io fosse tutte per te... due, ma alt! Alt! Alt! Alt! Alt! Fermi, che c'è? Più un rifacimento totale. Quello studio. Ah, con gli studi. Da rifare gli studi. Luci. Ma le brucierei vivi tutti quanti. E Mannoni? E Mannoni? Alta, no, e Mannoni? Alt! E poi alt! E poi fare una cosa, Giannini. Cosa? E chiederei a Crozza di andare da Giannini. Beh, ma ho capito, chiederei a qualcosa da Giannini. Quello va da Floris, che vuol dire? Cioè, ma è a fine contratto, alla fine. Vabbè, dell'anno. Prenderesti Crozza alla Rai, questo Santoro sarebbe da riprendere alla Rai, scusami maestro. Sì? Santoro sarebbe da riprendere? Nuovo progetto, ma per capire, Santoro, ecco, ha tre progetti straordinari anche qui. E perché no? E perché non riesco? Perché dice che non li vogliono? E non è detto. Eh? Non bravo, ma ecco, Parenzo, tu sei molto informato. Sì, non è... vabbè, non è ma detto. Perché lui non sa, cioè, un ti stai dicendo, no, per fortuna non so un cazzo di queste cose. No, allora, Giuseppe, posso ti raccontare una cosa? Dimmi. No, invece io credo che Santoro voglia fare la docufiction. Sì, vabbè, quello si sa da tempo. Sulla Rai, E secondo me ha dei progetti estremamente innovativi, efficaci. Sì, esattamente. Sì. Sarebbe da prendere, secondo te? Sarebbe da prendere. Perché, ecco, voi pensate sempre che l'esistente è ciò che deve essere salvaguardato. Invece no, voi sapete benissimo, guarda Discovery, guarda Sky, che ci sono tutta una miriade di nuovi generi che sono ibridati, la docu-fiction, la docu... Vabbè, senti, ma ti voglio fare una domanda, ma lo sport alla Rai... Dimmi la verità, lo sport alla Rai non fa schifo, secondo te? Adesso... Peggio che schifo. Peggio che schifo, dici? Sì, peggio che schifo. Cioè, in confronto ad altri è proprio... Sì, anche perché lo sport è dove tu senti veramente la mano, certo. La mano degli altri, che è pesante, ha innovato. Alla Rai sono al Medioevo, dove stanno rispetto ad altri? No, anzitutto, secondo me c'è un problema, addirittura anche qui, io parlo, la televisione è fatta anche di immagini. Che i giornalisti sono di due tipi, o uno con la cravatta, uno con il maglioncino, ma non ci possono essere quei vestiti, quelli lì. Sono vestiti male, cioè quelli là malissimo. Cioè Barriale si presenta male, per esempio. Barriale è tifoso, poveri, io le voglio bene. Tifoso di che? Tifoso di che? Napoli. Ma che c'entra tifoso del Napoli? Ma non si deve essere tifosi, dai. Vabbè, ma non è che dimostra di essere tifoso del Napoli, dai, su. Aspetta un attimo, fermo che c'è la pubblicità, poi torno. Cruciani, fai schifo, tu e tutti questi deviati. La Zanzara. Ma naturalmente voglio dire una cosa forte, voglio riportare Gino Bramieri in Rai con Crozza. Ma certo, ma sì, stupido, sì, alto e basta. Ma naturalmente non succedeva nulla. Ti dà fastidio Crozza? Oppure... Allora, ti racconto, ho già avuto un casino, ho detto allora che lo sport di Rai sta scrivendo nel senso che è inadeguato. No, ma dimmi sta cosa di Crozza, dimmi sta cosa. È inadeguato rispetto a tutte le innovazioni delle reti. Vabbè, magari. d'accordo, dimmi sta cosa. Lo dico perché mi è arrivato l'insulto, dai. Dimmi sta cosa di Crozza, se Crozza ti imita bene oppure no. Ma le cose li voglio molto bene. Ti dà fastidio, un po' ti dà fastidio però sta cosa. Mi gira i coglioni, sì. Ti girano, perché appunto, perché ti girano i coglioni? Perché? Che cosa parli di altri? Cos'è? Oltretutto io li voglio un bene dell'anima. Ma perché ti girano i coglioni? Ma è straordinario essere imitati da Crozza. Scusa, alto, alto, basso, alto, basso, alto, basso, alto, basso. Ma perché? Perché non vuoi attaccare Crozza che è amico tuo? Ma no, ma perché deve... Non hai voglia di parlare di Crozza, vabbè, no. Cioè, ti girano i coglioni. Ma ti ha ragione, non ma si perché parla ti mai rende, delle ti rende una macchietta, ti rende vero? Una macchietta, perché? Per questo? Beh no, non è vero, io sono molto serio. Molto no, ma lo so, ma perché ti rende una macchietta questa imitazione, questo è il punto. Ma sono quelle vendette perché la prendevo sempre in giro quando facevamo quelli che il calcio dicendo che no, che praticamente imita sempre, fa un solo personaggio con tante declinazioni, quindi si è vendicato. Si è vendicato di te, si è vendicato di te, si è vendicato di te. Una piccola vendetta, cioè lui fa anche queste cose, dici Crozza, sembra tutto così, ma agisce anche per vendetta. Ma no, poi oltretutto noi liguri, tra di noi ci insultiamo, lo sai benissimo. Il nostro, ma quando io parlo con Ricci, sì. È sempre un insulto continuo, la prima di 5 minuti, è una prova di... La Liguria, cioè i liguri tra di loro devono, per amarsi, devono insultare. Senti, ma è un caso che il tuo amico Ansaldi oggi sia andato in soccorso di Porro, una cosa incredibile. No, ma ecco, guarda, allora vi racconto una cosa agli spettatori, sì. Perché ho visto che è tanta pubblicità. Dimmi. Berlusconi aveva per decidere a volte i programmi, se mandarli in onda oppure no, aveva come sua cavia. Chi? Il povero Gonfalonieri. Sì. Quando io ricordo molto bene, si doveva discutere ad esempio del pranzo è servito, oppure no, invece ancora ok, il prezzo giusto. Ricordo che gli dice: entra il povero Gonfalonieri. Eravamo lì da Gonfalonieri da tantissime ore che eravamo lì assieme a Berlusconi. Dice: Gonfa, vieni qua che ti racconto un programma. Sì. Ti piace questo programma? Ti piace? Sembra una Sembra una stupidata. Allora ragazzi, mandiamone in onda subito. Confalonieri, se diceva che era una stupidata, Berlusconi lo mandava in onda. Assolutamente, era la prova. Quando c'era un... da decidere qualcosa e c'era contrasto. Il test all'opposto, faceva il test all'opposto. Lui era il test ideale. Ecco, Ansaldi cosa fa? Quando deve c'è qualcuno nel PD che deve dire una cazzata, una cosa seria, chiamano Ansaldi per dire il suo contrario. Ansaldi, poverino, è proprio l'astonato del PD. E ne dice di tutte le cose di cose. Pensa un attimo a cosa ha detto oggi delle cose ieri, cioè... senza senso, a me fa anche tenere, cioè tipo ormai. Cosa, che cos'è senza senso, non ho capito. Ad esempio ha detto, cioè difende, scusa, ti sembra normale difendere il virus e non difendere difendere Rai 3, cioè la odia Rai 3 perché Rai 3 ha qualcosa contro Renzi, è proprio il più fondamentalista, è il più fondamentalista, cioè tipo cosa, chi è tipo il ministro della cultura del nazismo, chi è, Goebbels, no, poverino, Goebbels era un genio, ragazzi, lo sapete benissimo, cioè il suo confronto era un genio, dice. Che ne so, Starace, chi era quello del fascismo, no, chi era? Cosa vuol dire? Io lo dico, se è un manganellatore, adesso, un manganellatore. Ecco, tu sai che quello che era ai tempi di Berlusconi, chi era più? Era sia Gasparri. Sì, il Gasparri di Berlusconi, il Gasparri, il Gasparri di Renzi. Il Gasparri di Renzi. Anche, però devo dire che Gasparri è un pochettino meglio adesso. Più intelligente, no, più intelligente di Ansaldi, addirittura. Sì, è un po' migliorato. Allora, comunque lui dice che 500.000 euro a Giannini per farsi battere da Floris. Ma queste cose, allora, innanzitutto questa cosa, che quelli di sinistra non devono mai essere pagati, devono essere poveri, è una cosa del cazzo. Bravissimo. Cioè, veramente una cosa del cazzo. Ma solamente voi. Ma tu pure vuoi soldi? Adesso anche tu hai detto che non li volevi. Anche tu non li volevi, adesso dice che li vuoi. No, ma che prima hai detto di no, adesso vuoi soldi. Anche perché sai perché? Perché il lavoro va pagato, ragazzi, fine. Bravo, basta, ecco, non si discute. Vaffanculo. Il lavoro si paga, si paga. Il contributo che si dà si deve misurare. Beh, no, il contributo pure gli altri, allora, pure gli altri che non danno meno contributo, gli altri del consiglio di amministrazione della Rai, scusa che... ma loro sono pagati, io no. No, ma alcuni sì, altri no. Quanti soldi devi prendere? Quanti soldi dovresti prendere tu? Ma per capire, sono 30.000 euro là, lordi. 30.000 lordi all'anno? Vabbè, sì, la Rai sganciasse i soldi, la Rai non rompessero i coglioni, dai, su. Devo dire, però tu hai detto che non l'avresti presa all'inizio, questo è il punto. Secondo me sì, l'ho detto perché per un motivo molto semplice, perché così tranquillizzavo quelli del PD, capisci? Ah, sì, così hai fatto una furbata all'inizio. Sì, adesso invece li vuoi. Ma giusto, dal punto di vista dell'occupazione del potere, secondo te Renzi è peggio di Berlusconi? Secondo me sì, perché secondo me, guarda, io su queste cose sai che siamo totalmente fotocopie, io penso proprio di sì. Oltretutto perché poi è non solo, ma è anche proprio fiorentino, solo quelli di Firenze, cioè è veramente proprio... Porco Giuda, inaspettato questa. Lui che vuole essere rottamatore vince proprio così tradizionalista nella gestione del potere. Cioè rottamatore, però troppo familistico. E poi c'è un altro fatto, confonde l'Italia con Firenze. Sì. Non è possibile veramente quest'altra cosa, è terribile, cioè quella cosa la storia di Carrai, la storia. Vabbè, sì. Ma ha detto queste cose, tanto senti, referendum lo vinceremo e lui andrà via. Beh, lo vinceremo, andrà via, ma che sei un militante politico? Che sei diventato? Cioè, in fin dei conti lavori anche alla Rai, non puoi dire lo vinceremo il referendum. È un cittadino, io sono un cittadino italiano. E vabbè, ho capito, vinceremo il referendum. Scusa, di questo volevo chiedere, e cacceremo Renzi. Diciamo qualcosa, Francesco, su questa stupidaggine per cui i magistrati non possono dire nulla sulla riforma costituzionale, che mi pare una follia assoluta proprio. Il microfono. Questo bavaglio da mettere ai magistrati, che non possono esprimersi sul referendum. Ma no, ma chi se ne frega di questa roba? Ma chi se ne frega dei magistrati? Ma che domande fa Parenzo, i magistrati? No, constatazione. Io lo capisco invece Parenzo, perché Parenzo... Ma fa tutte domande dalla 7, tutte domande tipiche di... I magistrati che normali. Non possono parlare del referendum. Ma tu hai letto le polemiche di questi giorni o no? Ritorniamo un attimo a Bobba. Se io tu dici e se io questo referendum lo perdo, vado via. Io come cittadino posso rispondere ti mandiamo a casa? Scusami tanto. Sì, tu vuoi mandare a casa Renzi. Ma ti rispondo un attimo. Mi puoi ascoltare? Se il primo ministro lancia la sfida e dice... Ma, se perdo, vado a casa. Io come votante, come cittadino, che può votare. Posso rispondere alla sua Sì, ma tu però hai un ruolo anche alla RAI, non sei solo cittadino. Ma non fanno un cazzo lì al consiglio d'amministrazione, non si fa niente. Gli altri chi lavora con te? Chi lavora? Che cosa comanda? Gli altri che fanno? La televisione va per conto suo. Va per conto suo. Campo dall'Orto non fa, alla fine. No, va per conto suo. Ha delle regole ben precise. Che cosa ma chi dire? Comanda per davvero? Secondo te? Chi è i consulenti di Campo dall'Orto? Chi sono? A chi si rivolge a lui? Chi è il consigliori? Cioè, alla fine, No, lui è molto. È molto riservato. Isolato, è molto. Senti, invece sono curioso, è solo, decide da solo, solo, decide molto da solo. A te non ti ascolta per niente. No? Ma puoi capire, io sono marginale, io rappresento la voce dei dannati. La voce dei dannati. Sì, però io questo lo trovo sbagliato. Uno perché se deve essere, uno come Freccero lo devi ascoltare, cazzo. C'è Convoco una volta a settimana, almeno ti dice la tua. Poi magari lo mandi a fare in culo, però almeno vai lì, fai finta di ascoltare, dici che ne pensi, Carlo, di questo, di quest'altro. Ma no, assolutamente. Ma anzi, poverino, se sa bene, pensa un attimo se Renzi sapesse che mi ascolta, che mi riceve una volta alla settimana. Lo licenzia subito. Senti, io faccio il tifo per Trump. Posso dire, tra Trump e allora ti posso dire una cosa molto importante. Dimmi, molto importante. Trump è meglio che la signora Clinton. Oh, no, Freccero! Questo è in dubbio. Non c'è dubbio. Dici, da che punto di vista? Scusa. Da tutti i punti di vista. Almeno lui parla chiaro, non è come lei, è veramente vicida. Lei, posso dirti veramente, sì, è peggio che Claire di House of Cards. Peggio, dici? Ah, sì, certo, sì, è peggio di quella di House of Cards. Ma Trump è così, è nature, è tutto, è goffo. Quanto, è proprio come la Coca-Cola, esce fuori dal bicchiere, tracima, è come la Balbro che ti avvelena. Vabbè, però contro gli immigrati picchia duro, sì, Ma almeno è così, almeno lo capiamo, che cos'è, poi magari cambierà, perché quando diventi presidente poi non puoi fare quello che dici, no? Appunto, ecco. Ma invece l'altra è terribile, l'altra pensa cosa ha fatto in Ucraina, ma pensa un attimo cosa ha fatto in Siria. E Obama? Gli è andato il premio Nobel della pace, sta roba dell'altra. E la Botteri? No, la Botteri, ti prego, basta, la Botteri è santa, perché ci ha avuto dei casini, già sullo sport, mi hanno già chiamato, dicendo... Sai perché questo programma io l'adoro? Perché si può, c'è uno spazio in cui uno dice... È come essere un po' a casa. Amico mio, certo, però con 2 milioni di persone che ti ascoltano, questo è il taglietto. La casa purtroppo va da 2 milioni. Per cui io cancello tutto quello che ho detto. Ma che cancelli? Sì. Vai a fare in culo, Carlo. Adesso Trump, ti mando veramente a fare in culo, dai. Trump concordo. Cioè, molto. Meglio, io tifo Trump. Per meglio Trump della Clinton, sì, tutta la vita. Questo non c'è ombra di dubbio. Meglio Trump. C'è ombra di dubbio. Meglio ma Trump della ombra di dubbio. E Mannoni è il più renziano di tutti, però adesso un po' meno. Ciao, ragazzi. Minchia Cruciani, ma proprio non capisci un cazzo, meno male che c'è Parenzo che ti spiega le cose. Viva Parenzo. La Zanzara. Il menù di oggi della Zanzara è pasta scotta di Reggio Emilia, polli assassinati dai Boy Scout, conigli scuoiati e il tutto servito su minchie nere. Siamo al top. Se tu dici di chiamare, chiama una bella sega. Sei sempre occupato sto numero di merda. Cambialo. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Antonio da Napoli, vai! Ciao, Antonio da Napoli. Dimmi. Prima di tutto voglio farvi complimenti perché siete grandissimi e siete i miei compagni di viaggio. Grazie, grazie, vai avanti, dimmi. Allora, volevo rispondere in merito a ciò che ha detto il signor Cazzola, Cazzola. Allora, io in pratica adoro la musica e sono figlio di musicisti. Sì. E... mi spacco la schiena, mi spacco il culo perché faccio due lavori e nonostante tutto trovo anche il tempo di fare piano bar il fine settimana. Bene, però fai un altro lavoro. Faccio due lavori. Cioè che fai? La notte lavoro in un, da 12 anni a questa parte, ho 32 anni, per una grande distribuzione. È esattamente quello che ho detto prima io. Sì, infatti condivido in pieno tutto ciò che hai cioè, detto. Cioè, tu fai il piano bar sì. Per diletto, magari lo vorresti fare per lavoro, però evidentemente non ti basterebbe. Cioè, esatto. No, è quello che guadagni. E giustamente Cazzola dice al figlio: ti devo dare 1500 euro per, al mese a 47 anni per inseguire i tuoi sogni di fare il cazzo sì, ma di lo diceva musica. In polemica giusto, lui. Come lo diceva in polemica? Più polemica padre di quella. Fa sempre, ma che il padre fa sempre ma questa il storia, per i figli. Questa storia per cui bisogna essere indulgenti nei confronti dei ma figli indulgenti è una puttanata. Ma... ha detto giustamente niente, nella prima versione nella prima sembrava. Versione no ma al contrario era molto duro nella prima versione Cazzola poi dopo ci ha ripensato perché il figlio gli ha detto ma hai sputtanato in televisione mi hanno chiamato gli amici i cosi in radio alla Zanzara vabbè, ho sentito certo, una polemica ma anche perché poveretto quando c'è una roba che niente, succede allora, pezzo di merda no perché pezzo di merda ho detto pezzo di merda io umanamente ma ho detto pezzo di merda ma no, lascialo però, dire al padre poveretto ma perché ti devi impersonare nel figlio cioè o del padre sono empatico con le persone mi dispiace non è che sono sprezzato. La cosa è incredibile. Cazzola dice una cosa. Ma sì, ma uno ma può saranno avere affari un carattere suoi. Diverso. A me dispiace, uno è ti empatico. Dispiace, se vabbè, questo... ti dispiace. A te non te ne frega niente. Ma no, ma l'ha detta Cazzola, che me ne frega a me? Ma scusa. Ma no, ho capito, però. Tu, ma perché me ne dovrebbe fregare? In empatia. Ma non lo conosco, persone. Cazzola. Ma chi se ne analizzo frega, quello che dice. Culo, ma se ne, va, se ne ho frega, detto maledetto. Così. Allora, devi fare la macchietta di Cruciani. Falla pure. Ma va bene, falla. Ma falla. Maledetto, ma chi se ne frega? Va bene, maledetto. Antonio, parla con Antonio, che è più serio. La cosa che non trovo giusta è che già i tempi d'oggi sono durissimi. Ti avvale ancora della facoltà di chiedere i soldi a papà? Io ognuno fa quello che gli pare, no? Sì, ha ragione vero, Antonio, però... ti dovresti uno che ha 47 anni piglia i soldi dal padre si dovrebbe ma vergognare. Uno fa quello che gli pare. Si però... dovrebbe vergognare. Però signori, pensate che io, come ribadisco, ho 32 anni. Cioè io mi vergognerei, io mi metterei sì, di fronte sì, allo infatti. Specchio e direi mi vergogno, poi dopodiché vabbè, me li faccio dare lo stesso, no. Però io davanti allo specchio chiesto, io mi vergogno. Ma sì, vabbè, non ho mai chiesto un centesimo ai miei genitori e pensate che da 2 anni a questa parte, per sopperire alle carenze di soldi che purtroppo ci sono, da 2 anni a questa parte sono consulente di luce e gas e quindi dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera faccio il consulente porta a porta e dalle 8 di sera fino sì, alle 2 di notte lavoro nella grande distribuzione. E poi a tempo che... perso fai anche il musicista al piano bar. Ma ha ragione Antonio, sì, Antonio sei il numero uno, guarda fai 3 lavori insieme. La tua passione è fare il musicista, però non hai il padre Cazzola che dà 1500 euro al mese al figlio di 47 anni e dunque non ti può permettere di fare i sogni. Esatto, mio padre che è professore di sognare. Musica, però purtroppo... Voglio fare il regista, voglio fare lo sceneggiatore, vabbè, voglio fare il cantante, voglio fare sto cazzo, vai a lavorare. Pubblicità. Traffio una se. La Zanzara. Ciao Cruciani, sappi che mi ci masturbo tutto il giorno con il tuo cervello. Cruciani, se tu sei frocio per la provocazione, io sono frocio di te. Siamo peggio dalla Corea qua, eh? Mamma mia. Mamma mia. Peggio della Corea del Nord. Mamma l'esaltazione mia. Del conduttore. Mamma mia. Il crucianesimo. Allora, circola questa cosa che mi mandano. È geniale. È una invenzione, uno scherzo. In realtà non so, non è nemmeno uno scherzo, credo. Credo che sia semplicemente una. Semplicemente un montaggio. Però mi piace pensare che sia originale, senti. Pronto? Sì, pronto, sì, pronto, salve. Sto sì, parlando con il signor Trantino, piacere, sono Nettina di Telecom Italia. Le abbiamo chiamato siccome stiamo lavorando nella sua zona e merito agli aggiornamenti fatti nelle centraline Telecom per la velocità di ADSL. Lei, signor Francesco, l'ha utilizzata l'internet a casa? No, ma io non so, Francesco, io sono l'avvocato. Ah, e con chi ho piacere di parlare, mi scusi? L'avvocato Giovagnoli. Ah. Perché purtroppo Francesco l'hanno rinchiuso stamattina. Ha ammazzato la moglie col filo del telefono, quindi voglio dire, non mi pare il caso mo di rimettere la linea a casa, che sennò questo ammazza qualcun altro. Mo non so quando lo fanno uscire. Ha ammazzato la moglie? Sì, l'ha legata con la cornetta del telefono e l'ha strozzata. Vabbè, sempre meglio di quell'altra di moglie, quell'altra l'ha buttata giù dal terrazzo. Fortuna che era solo il secondo piano, si è rotta solo le gambe. Mo la lascio perché ci stanno i carabinieri. Se vuole può richiamare fra, penso, 8-10 anni, insomma, a seconda di quando lo fanno uscire. Ok? Grazie, arrivederci. Sono dei geni assoluti. È un genio. Perché poi c'è questa cosa degli 8-10 anni, no? Come dire che tanto ammazzi la prima moglie, la seconda, e ti danno al massimo 8-10 anni, è numero uno assoluto. Giovanna Prato, vai. Luciani, io se ti avessi avuto tra le mani prima, quando ti ha detto in quel modo dei musicisti, ti avrei ammazzato i botte. Ma che ho allora, fatto, te Giovanna? Non capisci niente, sei un emerito ignorante, sì, capone, sì. Di musica non ci capisci un accidente. Ma quello può darsi, ma che c'entra questo? Scusami, no, Giovanna. C'entra perché... Non fare l'aterosclerotica. Ascolta, non fare la Mediaset e la 7, siete tutti appe coronati a Renzi. Tutti, ma noi non quanti siamo né Rai né Mediaset né la 7, dunque non ci rompere i coglioni, Giovanni. No, no, vabbè, comunque, seppure. Comunque, il ma io pure che appe coronati a Renzi sarai allora, tu, sarai. È il paese che ha una cultura musicale immensa. Allora mi spieghi perché un musicista deve andare a fare il cameriere o a pulire il cesso? Non hai capito. E non deve studiare musica. Ma perché pulire i cessi adesso? Pulire i cessi è una cosa disdicevole. È una cosa disdicevole. Al mio lavoro mi devo fare 200 lavori. Perché te? Perché il metalmeccanico che fa? Fa il metalmeccanico, il barista, il cavolo fa? Ne fa uno di lavoro. Ma che c'entra? Allora, ma la cultura musicale nell'Italia, in Italia. Ma che c'entra? Ma che te sei rincoglionita, Giovanna? Ma che te sei rincoglionita? Ma che sei rincoglionita? Ma che c'è? Ti funziona ancora il cervello o no? No, a me funziona il cervello, ma a te non ti funziona. Ma quanti anni hai, Giovanna? Mi sa che il cervello non ti funziona più, c'è qualche rotella che non funziona. No, nella scuola italiana la cultura l'età ti ha fatto eliminata. Chi se ne fa? L'età ti ha fatto sbroccare l'età. Ma come si... Ma il mio musicista è un lavoro, è una professione. Ma quale lavoro? È il tempo libero il musicista. Ma poi tempo libero? Può diventare una... È in Italia che si pensa così, perché siete ignoranti, siamo ignoranti in Italia. Tu che lavoro hai fatto? Perché tanto ormai non lavori più, te sei in pensione, no? No, pallino, io ti voglio solo pallino, dire, ma che fai giornalista, è una professione, sì o no? Sì, ma che c'entra? Il discorso è diverso. Ma non è una professione. Ma se uno deve essere, ma se devo essere mantenuto da mio padre a 47 anni. Non essere mantenuti, è la colpa di questi cornuti che non hanno preso mai in considerazione la professionalità della musica. Giovanni, adesso che vogliamo fare? La cultura di Stato, i musicisti pallino, di Stato. Pallino. Nella scuola ci deve essere la cultura. Ma che c'entra? Sai quanto stanno meglio se studiano anche musica? Ma devono fare la matematica. Una cultura che te manco ti immagini. Ma devono fare la matematica, non la cultura, non la musica, ma così sapete perché? La biologia, perché? L'ingegneria, non musica, la, non la musica. Arte, certo. A farci rimanere nell'ignoranza più nera, carino, sai? Ma l'ignoranza, vai in America, dove sono ignoranti come bestie, ci fanno un bucio di culo così. Dai, perché su, ignorante? Giovanna. No, i musicisti non sono ignoranti, sono i giornalisti ignoranti che non hanno nemmeno la capacità di ragionare e di invitare le persone giuste, perché servizio Rai un ce n'è, fate tutti che vi pare, solo in base a quello che dice il caro Renzi. Ma chi l'ha detto? Beh, no, ma chi l'ha detta sta cosa? Però, chi l'ha detta? Ma io non sono a Pecorino con Renzi, sarai tu a Pecorina, sì. Sarai tu a Pecorina, io no. Tu sei te e tutti quelli in Italia, giornalisti chiari, puliti, un ce n'è uno su mille, E chi sarebbe uno? Chi sarebbe questo uno? E non te lo dico, perché se te lo dico, poveraccio, quello perde pure il posto. Perde il posto perché lo dice Giovanna da Prato, ma dai, certo, su. Certo, perché voi siete tutti venduti. Ma venduti a chi? Venduti ma venduti un cazzo. Bellino, bellino, bellino. però che fa per il servizio pubblico? Ma chi? Il dico della RAI, cosa fa? Un accidente di nulla, si piglia soldi o fa un cavolo? Ma vi sembra geniale? Ma chi? La musica è una cosa importante, mettetelo bene con questa testa di cavolo, tutti quanti. Giovanna, io ho detto semplicemente... un po' io ho detto semplicemente che a 47 anni uno non può essere mantenuto dal padre perché ha l'ambizione di fare il musicista guadagna però... una stramaledetta mazza, capito? Ma che te ne frega a te, però mica ti cambia a te no, la vita, ma è scusa. L'abitudine delle persone a essere sovvenzionate dai genitori fino a 50 anni. E dai, te che non capisci, sei te che non mi dai la possibilità di lavorare, imbecille, perché come sei al meccanico tu me lo dai il lavoro e alla musicista no? Perché? Ma imbecille a chi? A chi? Imbecille a chi? A quelli che pensano come te, cioè a te in questo momento, sto parlando con te, con chi parlo, scusa. Il mio nonno. O pallino. Hai ragione. O pallino. Giovanna, scusami un attimo. Ha ragione. No, ma non ha ragione, ha torto su tutti i fronti. Perfettamente ragione. Ma, beh, adesso stiamo calmi, però comunque va bene. Capito, hai bestemmiato, che hai fatto? No, ha detto no, pallino, io un bestemmio, mettilo bene in cervello. Meno male. Pallino in Toscana è straordinario, vuol dire proprio cretino, vuol dire proprio disgraziato. Ma bello inteso, tanto bello. Come sì, no? Mi piace molto il toscano, il pallino piace molto, perché proprio come dire miserello, poro idio, poro cretino, pallino, come dire. Capito bene, bravo. Lo so, conosco il toscano. Allora, ma vaffanculo allora, Giovanna, scusa, no, t'ho proprio detto una cosa bella, pallino. Come dire, sei un povero cretinello, proprio uno sciocco. Ma allora io la mando a fare in culo, non l'avevo capito. Pallino mi sembrava una cosa leggera, invece no, era che leggera. In Toscana è devi imparare a capire le cose, ma a capire che non voglio le persone che vengono mantenute dai genitori per fare i musicisti fino a 50 anni. Questo devi mettito in testa, tu, in quella testa da vecchiaccia che c'hai. Maledetta, maledetta. I vecchiacci io metto, però ti voglio dire, maledetta, che la cultura musicale è importante, la vuoi capire sì o no? Perché l'Italia può vivere di musica, porca diavolo, sta vecchia maledetta, sì o no? Sta vecchia maledetta. Ma come vecchia maledetta? Era maledetta, dici? Vecchia, la vecchiaccia maledetta. Una che starnazza, starnazza così, starnazza. Starnazza. Starnazza. Starnazza come una gallinella, come una gallinella. Pallino, pallino. Una gallinella inacidita. O stai bello calmino, pallino. Ma pallino, ecco, bravo. Ecco, capisci. Una gallina inacidita. La musica. Ma rispetto per gli anziani. Una gallinaccia maledetta. Ma quale gallinaccia? Ricordati una cosa. La musica, gli italiani potrebbero vivere di musica. Tutti i ministri di hanno pensato bene di levarla dalla scuola. Ma te ne rendi conto, sì o no, dell'imbecillità di questo cavolo di mondo? Ma finiscila, dai, su, vivi in un altro mondo, una vecchiaccia rincoglionita, dai, ma su, poveri, Giovanna. Non si può dire così, ma un'anziana, per carità, dai. Ma quanti anni hai, Giovanna? Quanti anni hai? No, ma questo stupidello, ignorante cafone. Io capone. Ma hai detto per tutto dai 10 minuti pallino. Che mi dici pallino, ho capito che è una bestemmia, ho capito che è un insulto, no, è un insulto, è un insulto. Mi sei un poveretto, un cialtroncello, pallino, ho capito, pallino. Questa è una vecchia rincoglionita, che poi non glielo dico che è una vecchia rincoglionita, è una vecchia rincoglionita che è starnata. Pallino, e rimando tutta al mittente, capito? Al mittente, te lo dire io al mittente che te do, al mittente. Ma ce l'hai una famiglia te intorno là, un figlio, una nipote, non ce l'hai? Di che so io, so affari mia che non t'hanno riguardato te. Io voglio parlare della musica. Io voglio parlare che l'Italia. Ma tu poi, scusa, nella vita che cazzo è? Ma nella vita e invece che... a questi musicisti non vi è data nessuna opportunità. Vergognatevi. Ma scusami, puttana. Giovanna, porca puttana. Sì, Giovanna, io non ho capito una cosa. Nella vita tu che stracazzo hai fatto? Ma poveretto, ma cosa hai fatto nella vita? Sono affari che non no, ti riguardano. Dimmi cosa hai non fatto. Si sta parlando di mestieri. Parla, dimmi cosa hai fatto nella vita. No, dimmi. Sono cose che ti riguardano. Avrei no, fatto la parassita di tuo marito. La parassita di tuo marito avrei fatto. No, palle d'oro. Io ho sempre d'oro. Lavorato. Sono i lavori che Giovanna, ho fatto io. Giovanna, digli così. Giovanna. Giovanna. E devi mettersi in questa testa. Sta vecchiaccia batata. Maledetta. Ma guarda. Perché mi chiedi? Io sto con Giovanna tutta la vita. Giovanna, digli testa di fava. È una professione quella del musicista, brava, capito? Come quello del barista, come quello del giornalista, come quelli di tutti. Sta vecchiaccia maledetta, starnazza, sta gallina. Dai, maremma diavola, ti piglierà a carci, guarda. Ferma lì. Cruciani, ma va su. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Cruciani, non solo per gli zigomi, ma tu hai le physique du rôle del ricchionazzo rovinato. Allora, alcuni geni dicono: grande Giovanna, finalmente una che tiene testa. Risponde Giovanna, solo con l'insulto. A parte che ovviamente stavo un po' giocando con Giovanna quando gli ho detto vecchia del cazzo, o comunque gli ho detto vecchiaccia, che starnazza la gallina, eccetera eccetera. Però Giovanna, la realtà è che tu non hai capito niente di quello che ho detto. Niente. Uno se vuole si può mantenere con la musica, a me non me ne frega niente, figuriamoci. Ho detto semplicemente che uno a 47 anni che si fa mantenere dal padre con 1500, ma è lui che ne ha parlato, cazzola, io che c'entro. Se si fa signora, fermi tutti. Uno che si fa mantenere dal padre perché vuole fare il musicista, come ha detto il signor Cazzola, poi pentendosi di quello che ha detto, è un coglione, chiaro, un parassita della propria famiglia. Una persona che non ha la possibilità di potersi mantenere perché la professione che sta facendo è una professione meravigliosa, ha capito? È meravigliosa. Ma che vuol dire? Ma non è meravigliosa, è come pulire i cessi, è la stessa cosa, la stessa dignità. La riforma gentile, questi cretini hanno levato la musica. Ma che hanno levato? Ma basta insegnare la musica alle scuole. Per mettere l'inglese e poi far venire fuori il grande genio di Renzi, il quale Renzi è così talmente bravo, pensa. Che ha fatto? Forma la Costituzione, prima ci sarea Croce, De Gasperi, ora ci sarà Renzi, Razzi, Verdini, ma senti come siamo Razzi bravi. No, però. In che mondo del cavolo siamo finiti? No, però voglio dire, Giovanna, adesso tu stai spostando l'attenzione da Renzi. Ma perché non vai sotto casa di Renzi, che sei là vicino a dire qualcosa? Poverino, quel posto dove sta lui, per carità, io sto in un posto un po' meglio. Ma perché Rignano fa schifo, Prato pure non è che sia sta bellezza. No, Pallino, Prato è di molto per bene. No, senta, per bene sicuramente, per bene. Di molto per bene sicuro, però non è che sia adesso rispetto a Rignano, non è che sta bellezza Prato rispetto a Rignano. No, un pallino poraccio te, eh? Tu ti rendi conto delle opere d'arte che c'è qua a Prato? Ma che sì, d'accordo, però anche dove abita la Boschi non è male, lì come si chiama? Arezzo, dai, no, lì è un cascinale del cavolo, ma chi se ne frega, l'arte non sta da quelle parti, l'arte è la musica e l'arte. Oh, avete rotto i coglioni, io ho detto un'altra cosa, hai rotto i coglioni, Giovanna, dai, io ho detto solo un'altra cosa. Detto, io l'ho capito, non sono mia scema. No, ma mi sembra invece un po' rincoglionita. Ho detto semplicemente che uno sei abbastanza rincoglionita, perché io non dovevo, non ho detto che uno se vuole può coltivare quello che vuole, tutte le proprie passioni, la musica, quello che vuoi. Ma io ti voglio far capire che te tu hai detto che la tua figliola deve andare a fare la cameriera perché la musicista non la può fare. Certo. Ma ti vergogni. Se mia figlia mi dice: papà, voglio fare la musicista, io dico: bene, benissimo, prima fai un lavoro normale, prima guadagna i soldi. La aiuterai a raggiungere il suo sogno, no? Normale, testa di cavolo. Ma che lavoro normale, sono passioni che possono trasformarsi in un lavoro. A te non capisci proprio niente. Vabbè ragazzi, poi ognuno fa il cazzo che vuole nella vita, non è che uno può costringere una persona, però basta, a un certo punto se mi chiedi soldi ti mando a fare in culo, se a 47 anni, non a 25, ma se a 47 anni mi chiedi soldi ti mando a fare in culo. Tu vai a capire. Il problema, Giovanna, è che tu. Io sordo di chi un vuole intendere. No, ma il problema è che tu sei stata mantenuta fino a tarda età. Questo no, è il punto. Che sì, sicuro, sei stata mantenuta fino a tarda età. Ma sicuro, non ha guadagnato mai una lira, Giovanna. Ma è evidente da quello che dice. Palle d'oro, io ho sempre lavorato. Ma non hai guadagnato. Che hai fatto? Non me lo vuoi dire perché non hai coraggio di dirmelo. Perché sono cosa. Affari che non ti riguardano. Dillo, parassita. Parassita. Quindi ho fatto una professione. Passami tuo marito. Come può fare il musicista? Come può fare l'idiota o giornalista? Cioè le persone appecoronate anche come ma te che e come giornalisti vari. Ma che appecoronati? Io non sono appecoronato, sarei tu appecoronato. No, Pallino, tu lo sei. Comunque sia, il musicista, mettilo bene in questa chiorba dura e che non capisci nulla, il musicista è una professione meravigliosa. Te l'ha capito? Ma certo che è meravigliosa. Diglielo, non c'è dubbio. Diglielo, Giovanna, basta Bercià in radio. Stai solo Bercià in radio, te. Solo Bercià in radio. Ma cosa c'entra questo? Ho detto, certo che è meravigliosa. Se uno riesce a mantenersi, va benissimo, ma se ha 47 anni. Ma allora non ti va a capire. Sei tu che non hai capito. Tu parli italiano, ma non hai capito un cazzo di quello che ho detto. Ha capito un cazzo, te non capisci nulla. Sei te che non sai, non capisci o non fai finta, ovviamente, di non capire. Faccio perché finta. Tutti l'affari tua. Però devi capire che il musicista è una professione dignitosa come tutte le professioni. Vabbè, allora chi ha detto il contrario? Chi dice il contrario? Te, tu l'hai detto. No, ho detto che uno non può essere mantenuto per fare musicista dal padre fino a 40-50 anni. Se quelle teste di cavolo di personaggi non danno il lavoro a questa gente... Ma che è dare il lavoro? Ma che volete? Pure il lavoro di Stato, i musicisti di Stato? Ma che è il lavoro di Stato? Voglio che non ma non sai che dire, non sai che dire. Ma se non incassano i teatri, che chiudano, no? E non rompeteci coglione a noi con i soldi di Stato, dai, su. Va, diavolo, vai. Se tu li pigli i soldi di Stato... Io non li piglio, sta gallinaccia maledetta, dai, su. Pronto. Sei una gallinaccia maledetta. Altrettanto. Sei una gallinaccia maledetta, vecchia maledetta gallinaccia. Che fa ci. Come posso mia perdere con un pinco pallino qualsiasi, via. Ma che palle, dai, su, dai. Ricordati comunque, mettitelo bene scritto grande mettiamolo come la casa. La musica è la cosa più bella. Ma chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Io non ho detto il contrario. Smettila. No, smettila, te non capisci nulla. Bestia. E un'altra cosa, palle d'oro. Dimmi, visto che tu fai tanti ganzi. È vero che ce l'ho le palle d'oro. Le palle ce l'ho d'oro. Io ti voglio dire, ricordati un'altra cosa. Dimmi. In Italia, voi tutti, sempre soliti giornalisti che non capire nulla. Venduti a Renzi, a Pecoronati, schiavi di Renzi, carità, eccetera, tutte le cazzate che hai detto, poi? Sono delle persone, per esempio, lo conosci Marco Pannella, cioè Radicali? Ma che c'entra? Certo che lo conosco, ma che discorsi conosci sono? Conosci davvero? Certo. Bene, ecco, i Radicali, Marco Pannella, sono delle persone meravigliose, mai li fate parlare, testa di cavolo, tutti quanti. Ma che mai? Ma no, ormai è finito. Quel mondo lì è finito. Tu sei te, perché le battaglie civili dei radicali di Pannella, come vedi, oggi ancora vanno avanti, idiota. Ma tu lo sai che Bartolomeo Colleoni era un temutissimo condottiero bergamasco del XV secolo, aveva tre testicoli a proposito di palle e tre testicoli sono rappresentati. Tre testicoli sono rappresentati nel suo ricordati, l'Italia vive sui diritti civili dei radicali. Ma di no, rompete i coglioni. Basta con queste storie. La musica, i diritti civili. Non devono lavorare il giorno, poi lavorare la notte. Devono lavorare come qualsiasi lavoro dignitoso che c'è in Italia. Vabbè, capito? La musica di Stato. Ciao, vecchia rincoglione. Ciao Rinco. Io la pipì la faccio nella bottiglia, faccio il camionista. Capita. Amico mio. Proviamo a chiamare un altro stronzo di oggi, va. Eccolo qua. Pronto? Don Mario? Chi è? Buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Buonasera. Chiamo da Radio 24, è vero che lei ha fatto suonare le campane? Che cosa? Chiamo da Radio 24, buonasera. Buonasera. Senti, è vero che lei ha fatto suonare le campane a Morto per annunciare l'approvazione della legge Cirinà? Sì, adesso sono impegnato, non... No, ma no, scusi un attimo, le voglio chiedere questa cosa che è molto importante. Vedo qua addirittura che c'è un cartello votata anche da cattolici. Ieri sera sono morti in matrimonio nella famiglia. Lei ha fatto appendere addirittura un cartello, un manifesto funebre. È già detto tutto lì. No, ma è già detto tutto lì. Ma che vuol dire, ma è già detto tutto lì? Don Mario, che vuol dire? Ma no, lei è un prete! Don Mario? È già detto tutto lì, c'è un prete, fa a spese della chiesa ovviamente, fa appendere un manifesto funebre per la morte del matrimonio della famiglia, che tra l'altro non è morto per niente, anzi si espande, no? Se volendo, no? Si espande. Ma certo, anzi, nascono altre famiglie. La roba da pazzi. Speriamo che i fedeli. A proposito di eterosessuali. No, domani. Emanuele da Udine, dai, Emanuele. Pronto, Cruciani, salve, buonasera. Dimmi. Lei apparecchio. Allora, io volevo dare il mio pienissimo appoggio al dottor Sgarbi sul discorso della... Non c'è bisogno, eh. Se la cava anche da solo, cioè sei d'accordo con Sgarbi? Sti cazzi che se la cava da solo, ha voglia. Però è un mio parere personale, vale come i coglioni del cane, però... No, non vale come i coglioni del cane, sono tutte le opinioni sono tutte sullo stesso piano. Che meraviglia, le voglio bene. Allora, senti che dica questa cosa qua. Secondo me il concetto di famiglia, di matrimonio, eccetera, sì, no? Soprattutto il matrimonio, è una delle più grandi puttanate che l'uomo abbia mai inventato. E sì, le spiego anche il perché, no? Per me perché andrebbe distrutto, detto questo, ha fatto parte... Se uno però vuole sposarsi, non ho capito a chi dà fastidio. Ogni volta che apre bocca Cruciani io le voglio sempre più bene, perché io e lei siamo due rette che vanno avanti sulla stessa linea. Beh, è importante che non si incrocino in un matrimonio. Mai. Ma chi lo sa nella vita, magari una mattina mi sveglio quello mi piace buscarlo in culo. Ma comunque adesso, non mi faccio fare questo discorso. Buscarlo in culo pure è bello, è un'espressione naturale, spontanea. Ma porti pazienza un attimino che le spiego. Vabbè, sono contro natura. Sì, certo che sono contro natura. Adesso le spiego perché. Perché? Ci sono più donne che uomini sulla Terra, giusto? Sì, più o meno, sì. Sì, sai perché? Perché? Lo sai perché? Perché un uomo può ingravidare momentaneamente più donne nello stesso momento. Questo per genio, garantire il proseguo della specie. Questo è il genio delle 20:49. Quindi se una religione, una filosofia di pensiero basata su puttanate, storielle, cazzate varie, che dopo questo ognuno ha il diritto di seguire per l'amore della pace, però se si usa un momento la logica la si disintegra subito. Sì. Se una ideologia di pensiero fa sì che di non dare la possibilità a un uomo di ingravidare più donne contemporaneamente, offende la natura, ergo la natura è Dio e quindi offende Dio. Quindi lei capisce la puttanata del matrimonio. Cioè, siccome la natura dà la possibilità all'uomo di ingravidare più donne contemporaneamente, solo questo dovrebbe portare a dire beh, che il matrimonio, l'istituzione del matrimonio, la monogamia, eccetera, eccetera, sono una puttanata, giusto? Sì, da mo, ma che cazzo di discorso? Lo sai che però. No, Emanuele, io posso anche essere d'accordo da un certo punto di vista. Parenzo, io vorrei prima o poi raccontare la storia incredibile di uomini che hanno messo incinta due donne contemporaneamente. Beh, ce ne saranno tante, credo. Ma è incredibile. Penso che ce ne siano tante. Tu forse sei uno di questi, no? No, ma questo non mi risulta. Non ti è successo. No, è tutto dichiarato. Hai rischiato qualche volta? No, hai rischiato di mettere incinta due donne? Non mi pare. Io ogni tanto ho avuto l'incubo di mettere, cioè nella mia vita, non adesso, ho avuto l'incubo di questa cosa qua, che tu sei, no, metti incinta una persona e poi contemporaneamente hai una sbandata per un'altra persona e metti incinta un'altra. Cioè, pensa che follia, pensa che dramma a domani. Ciao. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.